alta voce. Anna Bonaiuto legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Il cardinale lasciò andare la mano dell'innominato, col quale intanto aveva concertato quello che dovevano fare. Si discostò un poco e chiamò con un cenno il curato della chiesa. Gli disse in succinto di che si trattava e se saprebbe trovar subito una buona donna che volesse andare in una lettiga al castello a prender Lucia. Una donna di cuore e di testa, da sapersi ben governare in una spedizione così nuova e usare le maniere più a proposito, trovare le parole più adattate a rincorare, a tranquillizzare quella poverina a cui dopo tante angosce e intanto turbamento la liberazione stessa poteva mettere nell'animo una nuova confusione. Pensato un momento, il curato disse che aveva la persona a proposito e uscì. Il cardinale chiamò con un altro cenno il cappellano, al quale ordinò che facesse preparare subito la lettiga e i lettighieri e sellare due mule. Uscito anche il cappellano, si voltò a Don Abbondio. Questo, che già gli era vicino per tenersi lontano da quell'altro signore e che intanto dava un'occhiatina di sotto in su, ora all'uno, ora all'altro, seguitando ad almanaccar tra sé che cosa mai potesse essere tutto quel rigirio, s'accostò di più, fece una riverenza e disse: «M'hanno significato che Vostra Signoria Illustrissima mi voleva me, ma io credo che abbiano sbagliato». «Non hanno sbagliato», rispose Federigo. «Ho una buona nuova da darvi e un consolante, un soavissimo incarico. Una vostra parrocchiana che avrete pianta per ismarrita, Lucia Mondella, è ritrovata, è qui vicino, in casa di questo mio caro amico. E voi andrete ora con lui e con una donna che il signor curato di qui è andato a cercare. Anderete, dico, a prendere quella vostra creatura e l'accompagnerete qui». Don Abbondio fece di tutto per nascondere la noia, che dico, l'affanno e l'amaritudine che gli dava una tale proposta o comando che fosse, e non essendo più a tempo a sciogliere e a scomporre un versaccio già formato sulla sua faccia, lo nascose chinando profondamente la testa in segno d'ubbidienza e non l'alzò che per fare un altro profondo inchino all'innominato, con un'occhiata pietosa che diceva: «Sono nelle vostre mani, abbiate misericordia, parcere subiectis». Gli domandò poi il cardinale che parenti avesse Lucia. «Di stretti e con cui viva o vivesse, non ha che la madre», rispose Don Abbondio. «E questa si trova al suo paese?» «Monsignor, sì». «Già che», riprese Federigo, «quella povera giovine non potrà essere così presto restituita a casa sua, lei sarà una gran consolazione di veder subito la madre. Quindi, se il signor curato di qui non torna prima che io vada in chiesa, fatemi voi il piacere di dirgli che trovi un barroccio o una cavalcatura e spedisca un uomo di giudizio a cercare quella donna per condurla qui». «E se andassi io?» disse Don Abbondio. «No, no, voi ho già pregato d'altro», rispose il cardinale. «Dicevo», replicò Don Abbondio, «per disporre quella povera madre. È una donna molto sensitiva e ci vuole uno che la conosca e la sappia prendere per il suo verso, per non farle male invece di bene. E per questo vi prego d'avvertire il signor curato che scelga un uomo di proposito». «Voi siete molto più necessario altrove», rispose il cardinale. E avrebbe voluto dire: «Quella povera giovine ha molto più bisogno di veder subito una faccia conosciuta, una persona sicura in quel castello dopo tante ore di spasimo e in una terribile oscurità dell'avvenire». Ma questa non era ragione da dirsi così chiaramente davanti a quel terzo. Parve però strano al cardinale che Don Abbondio non l'avesse intesa per aria, anzi pensata da sé. E così fuor di luogo gli parve la proposta e l'insistenza, che pensò dovesse esserci sotto qualcosa. Lo guardò in viso e vi scoprì facilmente la paura di viaggiare con quell'uomo tremendo, d'andare in quella casa, anche per pochi momenti. Volendo quindi dissipare affatto quelle ombre codarde e non piacendogli di tirare in disparte il curato e di bisbigliar con lui in segreto mentre il suo nuovo amico era lì in terzo, pensò che il mezzo più opportuno era di far ciò che avrebbe fatto anche senza questo motivo: parlare all'innominato medesimo. E dalle sue risposte Don Abbondio intenderebbe finalmente che quello non era più uomo da averne paura. S'avvicinò dunque all'innominato e con quell'aria di spontanea confidenza che si trova in una nuova e potente affezione come in un'antica intrinsechezza, «Non crediate», gli disse, «che io mi contenti di questa visita per oggi. Voi tornerete, ne è vero, in compagnia di questo ecclesiastico da bene». «Sì, io tornerò», rispose l'innominato. «Quando voi mi rifiutaste, rimarrei ostinato alla vostra porta, come il povero. Ho bisogno di parlarvi, ho bisogno di sentirvi, di vedervi, ho bisogno di voi». Federigo gli prese la mano, gliela strinse e disse: «Favorirete dunque di restare a desinare con noi? V'aspetto. Intanto io vo a pregare e a render grazie col popolo e voi a cogliere i primi frutti della misericordia». Don Abbondio, alle dimostrazioni del cardinal Federigo, stava come un ragazzo pauroso che veda uno accarezzare con sicurezza un suo cagnaccio grosso, rabbuffato e con gli occhi rossi, con un nomaccio famoso per morsi e per i spaventi, e senta dire al padrone che il suo cane è un buon bestione, quieto, quieto. Guarda il padrone e non contraddice né approva. Guarda il cane e non ardisce accostarglisi per timore che il buon bestione non gli mostri i denti, fosse anche per fargli le feste. Non ardisce allontanarsi per non farsi scorgere e dice in cuor suo: «Oh, se fossi a casa mia». Al cardinale, che s'era mosso per uscire, tenendo sempre per la mano e conducendo sé con l'innominato, diede di nuovo nell'occhio il pover'uomo che rimaneva indietro, mortificato, malcontento, facendo il muso senza volerlo. E pensando che forse quel dispiacere gli potesse anche venire dal parergli d'essere trascurato e come lasciato in un canto, tanto più in paragone di un facinoroso così ben accolto, così accarezzato, se gli voltò nel passare, si fermò un momento e con un sorriso amorevole gli disse: «Signor curato, voi siete sempre con me nella casa del nostro buon padre, ma questo perierat et inventus est». «Oh, quanto me ne rallegro», disse Don Abbondio, facendo una gran riverenza a tutti e due in comune. L'arcivescovo andò avanti, spinse l'uscio, che fu subito spalancato di fuori da due servitori che stavano uno di qua e uno di là, e la mirabile coppia apparve agli sguardi bramosi del clero raccolto nella stanza. Si videro quei due volti sui quali era dipinta una commozione diversa ma ugualmente profonda, una tenerezza riconoscente, un'umile gioia nell'aspetto venerabile di Federigo, in quello dell'innominato una confusione temperata di conforto, un nuovo pudore, una compunzione, dalla quale però traspariva tuttavia il vigore di quella selvaggia e risentita natura. E si seppe poi che a più d'uno dei riguardanti era allora venuto in mente quel detto di Isaia: «Il lupo e l'agnello andranno ad un pascolo, il leone e il bue mangeranno insieme lo strame». Dietro veniva Don Abbondio, a cui nessuno badò. Quando furono nel mezzo della stanza, entrò dall'altra parte l'aiutante di camera del cardinale e gli si accostò per dirgli che aveva eseguiti gli ordini comunicatigli dal cappellano, che la lettiga e le due mule erano preparate e s'aspettava soltanto la donna che il curato avrebbe condotta. Il cardinale gli disse che appena arrivato questo lo facesse parlare subito con Don Abbondio e tutto poi fosse agli ordini di questo e dell'innominato, al quale strinse di nuovo la mano in atto di commiato dicendo «V'aspetto». Si voltò a salutare Don Abbondio e s'avviò dalla parte che conduceva alla chiesa. Il clero gli andò dietro tra in folla e in processione. I due compagni di viaggio rimasero soli nella stanza. Stava l'innominato tutto raccolto in sé, pensieroso, impaziente che venisse il momento d'andare a levar di pene, di carcere la sua Lucia. Sua, ora, in un senso così diverso da quello che lo fosse il giorno avanti. E il suo viso esprimeva un'agitazione concentrata che nell'occhio ombroso di Don Abbondio poteva facilmente parere qualcosa di peggio. Lo sogguardava. Avrebbe voluto attaccare un discorso amichevole, ma cosa devo dirgli? Pensava. Devo dirgli ancora mi rallegro? Mi rallegro di che? Che essendo stato finora un demonio vi siate finalmente risoluto di diventare un galantuomo come gli altri? Bel complimento. In qualunque maniera io la rigiri, le congratulazioni non vorrebbero dir altro che questo. E se sarà poi vero che sia diventato galantuomo, così a un tratto. Delle dimostrazioni se ne fanno tante a questo mondo e per tante cagioni, che so io, alle volte. E intanto mi tocca andare con lui in quel castello. Oh, che storia, che storia, che storia! Chi me l'avesse detto stamattina? Ah, se posso uscirne a salvamento, ma da sentire la signora Perpetua d'avermi cacciato qui per forza quando non c'era necessità fuori della mia pieve e che tutti i parrocchi d'intorno accorrevano anche più da lontano e che non bisognava stare indietro e che questo e che quell'altro e imbarcarmi in un affare di questa sorte. Oh, povero me. Eppure qualcosa bisognerà dirgli a costui. E pensa e ripensa. Aveva trovato che gli avrebbe potuto dire «Non mi sarei mai aspettato questa fortuna di incontrarmi in una così rispettabile compagnia» e stava per aprir bocca quando entrò l'aiutante di camera col curato del paese, il quale annunziò che la donna era pronta nella lettiga e poi si voltò a Don Abbondio per ricevere da lui l'altra commissione del cardinale. Don Abbondio se ne sbrigò come poté in quella confusione di mente e accostatosi poi all'aiutante gli disse «Mi di almeno una bestia quieta perché, dico la verità, sono un povero cavalcatore». «Si figuri», rispose l'aiutante con un mezzo sogghigno, «è la mula del segretario che è un letterato». «Basta», replicò Don Abbondio e continuò pensando «il cielo me la mandi buona». Il signore s'era incamminato di corsa al primo avviso. Arrivato sull'uscio, s'accorse di Don Abbondio che era rimasto indietro. Si fermò ad aspettarlo e quando questo arrivò frettoloso in aria di chieder perdono, l'inchinò e lo fece passare avanti con un atto cortese e umile, cosa che raccomodò alquanto lo stomaco al povero tribolato. Ma appena messo piede nel cortiletto, vide un'altra novità che gli guastò quella poca consolazione. Vide l'innominato andar verso un canto, prender per la canna con una mano la sua carabina, poi per la cigna con l'altra e con un movimento spedito, come se facesse l'esercizio, mettersela ad armacollo. «Oi, oi, oi!» pensò Don Abbondio. «Cosa vuol farne di quell'ordigno costui? Bel cilizio! Bella disciplina da convertito. E se gli salta qualche grillo? Oh, che spedizione! Oh, che spedizione!» Se quel signore avesse potuto appena sospettare che razza di pensieri passavano per la testa al suo compagno, non si può dire cosa avrebbe fatto per rassicurarlo, ma era lontano le mille miglia da un tal sospetto. E don Abbondio stava attento a non far nessun atto che significasse chiaramente «Non mi fido di vossignoria». Arrivati all'uscio di strada, trovarono le due cavalcature in ordine. L'innominato saltò su quella che gli fu presentata da un palafreniere. «Vizi non ne ha?» disse all'aiutante di camera don Abbondio, rimettendo in terra il piede che già aveva alzato verso la staffa. «Vada pur su di buon animo, è un agnello!» Don Abbondio, arrampicandosi alla sella, sorretto dall'aiutante, «Su, su, su!» è a cavallo. La lettiga, che era innanzi qualche passo portata da due mule, si mosse a una voce del lettighiero e la comitiva partì. Si doveva passar davanti alla chiesa, piena zeppa di popolo, per una piazzetta piena anch'essa d'altro popolo del paese e forestieri che non avevano potuto entrare in quella. Già la Gran Nuova era corsa e all'apparir della comitiva, all'apparir di quell'uomo, oggetto ancora poche ore prima di terrore ed esecrazione, ora di lieta maraviglia, si alzò nella folla un mormorio quasi d'applauso. E facendo largo, si faceva insieme alle spinte per vederlo da vicino. La lettiga passò, l'innominato passò, e davanti alla porta spalancata della chiesa si levò il cappello e chinò quella fronte tanto temuta fin sulla criniera della mula, tra il sussurro di 100 voci che dicevano «Dio la benedica!». Don Abbondio si levò anche lui il cappello, si chinò, si raccomandò al cielo. Ma sentendo il concerto solenne dei suoi confratelli che cantavano a distesa, provò un'invidia, una mesta tenerezza, un accoramento tale che durò fatica a tener le lacrime. Fuori poi dall'abitato, nell'aperta campagna, negli andirivieni talvolta affatto deserti della strada, un velo più nero si stese sui suoi pensieri. Altro oggetto non aveva su cui riposar con fiducia lo sguardo che il lettighiero, il quale, essendo al servizio del cardinale, doveva essere certamente un uomo da bene e insieme non aveva aria d'imbelle. Ogni tanto comparivano viandanti, anche a comitive, che accorrevano per vedere il cardinale. Ed era un ristoro per don Abbondio, ma passeggero. Ma s'andava verso quella valle tremenda, dove non si incontrerebbe che sudditi dell'amico, e che sudditi! Con l'amico avrebbe desiderato ora più che mai d'entrare in discorso, tanto per tastarlo sempre più, come per tenerlo in buona. Ma vedendolo così sopra pensiero, gliene passava la voglia. Dovette dunque parlar con se stesso. Ed ecco una parte di ciò che il pover'uomo si disse in quel tragitto, che, a scriver tutto, ci sarebbe da farne un libro. «È un gran dire che tanto i santi come i birboni gli abbiano avere l'argento vivo addosso». E non si contentino d'essere sempre in moto loro, ma vogliano tirare in ballo, se potessero, tutto il genere umano. E che i più faccendoni mi devan proprio venire a cercar me, che non cerco nessuno, e tirarmi per i capelli nei loro affari. Io che non chiedo altro che d'essere lasciato vivere. Quel matto birbone di don Rodrigo. Cosa gli mancherebbe per essere l'uomo il più felice di questo mondo se avesse appena un pochino di giudizio? Lui ricco, lui giovine, lui rispettato, lui corteggiato. Gli dà noia il benestare e bisogna che vada attaccando guai per sé e per gli altri. Potrebbe fare l'arte di Michelaccio. No, signore. Vuol fare il mestiere di molestare le femmine. Il più pazzo, il più ladro, il più arrabbiato mestiere di questo mondo. Potrebbe andare in paradiso in carrozza e vuole andare a casa del diavolo a piè zoppo. E costui... E qui lo guardava come se avesse sospetto che quel costui sentisse i suoi pensieri. Costui, dopo aver messo sotto sopra il mondo con le scelleratezze, ora lo mette sotto sopra con la conversione. Se sarà vero. Intanto tocca a me farne l'esperienza. È finita. Quando son nati con quella smania in corpo, bisogna che facciano sempre fracasso. Ci vuol tanto a fare il galantuomo tutta la vita, come ho fatto io? No, signore. Si deve squartare, ammazzare, fare il diavolo. Oh, povero me. E poi uno scompiglio, anche per far penitenza. La penitenza, quando sa buona volontà, si può farla a casa sua, quietamente, senza tanto apparato, senza dar tanto incomodo al prossimo. E sua signoria illustrissima, subito, subito, a braccia aperte, caro amico, amico caro, stare a tutto quel che gli dice costui come se l'avesse visto far miracoli. E prendere addirittura una risoluzione, mettercisi dentro con le mani e coi piedi, presto di qua, presto di là. A casa mia si chiama precipitazione. E senza avere una minima caparra, dargli in mano un povero curato. Questo si chiama giocare un uomo a pari e caffo. Un vescovo santo come lui, dei curati dovrebbe esserne geloso, come della pupilla degli occhi suoi. Un pochino di flemma, un pochino di prudenza, un pochino di carità mi pare che possa stare anche con la santità. E se fosse tutto un'apparenza, chi può conoscere tutti i fini degli uomini? E dico degli uomini come costui. A pensare che mi tocca andare con lui a casa sua, ci può essere sotto qualche diavolo. Oh, povero me, è meglio non ci pensare. Che imbroglio è questo di Lucia? Che ci fosse un'intesa con Don Rodrigo? Che gente! Ma almeno la cosa sarebbe chiara. Ma come l'ha avuta nelle unghie costui? Chi lo sa? È tutto un segreto con Monsignore e a me che mi fanno trottare in questa maniera non si dice nulla. Io non mi curo di sapere i fatti degli altri, ma quando uno c'ha a metter la pelle, ha anche ragione di sapere. Se fosse proprio per andare a prendere quella povera creatura, pazienza, benché poteva ben condurla con sé addirittura. E poi, se è così convertito, se è diventato un santo padre, che bisogno c'era di me? Oh, che caos. Basta. Voglio il cielo che la sia così. Sarà stato un incomodo grosso, ma pazienza. Sarò contento anche per quella povera Lucia. Anche lei deve averla scampata grossa. Sa il cielo cosa ha patito. La compatisco. Ma è nata per la mia rovina. Almeno potessi vedergli proprio in cuore a costui come la pensa. Chi lo può conoscere? Eccolo lì. Ora pare Sant'Antonio nel deserto. Ora pare Oloferna in persona. Oh, povero me, povero me. Basta. Il cielo è in obbligo d'aiutarmi, perché non mi ci son messo io di mio capriccio. Infatti, sul volto dell'innominato si vedevano, per dir così, passare i pensieri come... In un'ora burrascosa le nuvole trascorrono dinanzi alla faccia del sole, alternando ogni momento una luce arrabbiata e un freddo buio. L'animo, ancor tutto inebriato dalle soavi parole di Federigo, e come rifatto e ringiovanito nella nuova vita, si elevava a quelle idee di misericordia, di perdono e di amore. Poi ricadeva sotto il peso del terribile passato. Correva con ansietà a cercare quali fossero le iniquità riparabili, cosa si potesse troncare a mezzo, quali i rimedi più espedienti e più sicuri, come sciogliere tanti nodi, che fare di tanti complici. Era uno sbalordimento a pensarci. A quella stessa spedizione, che era la più facile e così vicina al termine, andava con un'impazienza mista d'angoscia, pensando che intanto quella creatura pativa, Dio sa quanto, e che lui, il quale pure si struggeva di liberarla, era lui che la teneva intanto a patire. Dove c'erano due strade, il lettighiero si voltava per sapere quale dovesse prendere. L'innominato gliel'indicava con la mano e insieme accennava di far presto. Entrarono nella valle. Come stava allora il povero Don Abbondio, quella valle famosa, della quale aveva sentito raccontare tante storie orribili, esserci dentro quei famosi uomini, il fiore della braveria d'Italia, quegli uomini senza paure, senza misericordia, vederli in carne e ossa, incontrarne uno o due o tre a ogni voltata di strada. Si chinavano sommessamente al Signore, ma certi visi abbronzati, certi baffi irti, certi occhiacci che a Don Abbondio pareva che volessero dire «fargli la festa a quel prete», a segno che, in un punto di somma costernazione, gli venne detto tra sé: «Li avessi maritati, non mi poteva accader di peggio!» Intanto s'andava avanti per un sentiero sassoso, lungo il torrente. Al di là, quel prospetto di balze aspre, scure, disabitate. Al di qua, quella popolazione da far parer desiderabile ogni deserto. Dante non ne stava peggio nel mezzo di Malebolge. Anna Bonaiuto ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.